Vangelo di Giovanni, capitolo 9. E passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, e i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui peccò né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo». Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che per l'innanzi l'avean veduto perché era mendicante dicevano: «Non è egli quello che stava seduto a chiederle l'elemosina?» Gli uni dicevano: «È lui». Altri dicevano: «No, ma gli somiglia». Egli diceva: «Son io». Allora essi gli domandarono: «Com'è che ti sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: "Vattene a Siloe e lavati". Io quindi sono andato e mi sono lavato e ho recuperato la vista». Ed essi gli dissero: «Dov'è costui?» Egli rispose: «Non so». Menarono ai farisei colui che era stato cieco. Or era in giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. E i farisei dunque gli domandarono di nuovo anch'essi come egli aveva recuperata la vista. Ed egli disse loro: «Egli mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci veggo». Perciò alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non è da Dio, perché non osserva il sabato?» Ma altri dicevano: «E come può un uomo peccatore far tali miracoli?» E v'era disaccordo fra loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: «E tu che dici di lui, d'averti aperto gli occhi?» Ed egli rispose: «È un profeta». I giudei dunque non credettero di lui che fosse stato cieco e avesse recuperata la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperata la vista e li ebbero interrogati così: «È questo il vostro figliuolo che dite esser nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede?» I suoi genitori risposero: «Sappiamo che questo è nostro figliuolo e che è nato cieco. Ma come ora ci veda, non sappiamo, né sappiamo che gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è d'età e parlerà di sé». Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei, poiché i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo, fosse espulso dalla sinagoga. Per questo dissero i suoi genitori: «Egli è d'età, domandatelo a lui». Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore». Egli rispose: «Se egli sia un peccatore, non so. Una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo». Essi allora gli dissero: «Che ti fece egli? Come t'aprì gli occhi?» Egli rispose loro: «Ve l'ho già detto, e voi non avete ascoltato. Perché volete udire di nuovo? Volete forse anche voi diventare suoi discepoli?» Essi lo ingiuriarono e dissero: «Sei tu discepolo di costui, ma noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma quant'è a costui non sappiamo di dove sia». Quell'uomo rispose e disse loro: «Questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure m'ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio verso Dio e fa la sua volontà, quello egli esaudisce. Da che mondo è mondo, non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe far nulla». Essi risposero e gli dissero: «Tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù udì che l'avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, «Credi tu nel figliuolo di Dio?» Colui rispose, «E chi è egli, Signore, perché io creda in lui?» Gesù gli disse, «Tu l'hai già veduto, e quei che parla teco è lui». Ed egli disse, «Signore, io credo», e gli si prostrò dinanzi. E Gesù disse, «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedano, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». E quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero, «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro, «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane».